Effetto Mondo. The campaign would have more specifics for you on legal recourse, but yesterday was one step in the constitutional process leading up to the January 20th date in the Constitution. Buongiorno Giulia. Buongiorno. Che voce di donna era questa? Era Kayleigh McEnany, la portavoce della Casa Bianca. Ieri ha tenuto una conferenza stampa, era molto tempo che non lo faceva. Apparentemente è la Kayleigh di sempre, molto, molto, sempre molto elegante, molto, insomma, truccata alla perfezione, molto calma, e però il tono era decisamente dimesso, perché la domanda che continuavano a farle era: dopo il voto dei grandi elettori, dopo le parole di Mitch McConnell al Senato, che abbiamo sentito anche noi ieri, che ha detto che si congratula con Joe Biden, e adesso, e lei ha continuato a ripetere, l'ha detto tre volte in modo diverso, quello di ieri è stato solo uno step del constitutional process e il prossimo è il 20 gennaio. E quando la pressavano i giornalisti dicendo: ma che cosa ne pensa il presidente Trump di questi ultimi eventi, lei continuava a rispondere: vi daranno maggiori informazioni i responsabili della campaign di Trump. Quindi insomma è difficile ormai per chiunque parlare di questa situazione, che dovrebbe essere finalmente, insomma, un processo di elezioni che dovrebbe essere concluso, ma Trump evidentemente non riesce, e a vedere dai titoli dei giornali ha talmente un po' stufato questo atteggiamento che non è sulle prime pagine, se non con piccoli titoli scende. Le notizie principali invece riguardano questo pacchetto da 900 miliardi di dollari di stimoli che dovrebbe essere finalmente approvato. È come una specie di compromesso, soprattutto da parte dei democratici, perché a questo punto è molto chiaro che con le famose elezioni in Georgia del 5 gennaio è importantissimo far avere qualcosa agli americani, che sono sempre più numerosi, in grandi difficoltà, ma anche proprio abbiamo visto le file davanti alle banche del cibo, alle food banks, sono sempre più in difficoltà sotto Natale. Quindi è come se i democratici dicessero: vabbè, sperando che poi, appena si insedia il nuovo congresso, il nuovo presidente, avremo opportunità di fare altri pacchetti di stimoli come li vogliamo noi, che includono per esempio la cancellazione del pagamento delle tasse universitarie, che i repubblicani non vogliono, e altri temi, intanto facciamo passare questo. Quindi oggi dovrebbe essere la giornata giusta, ed è veramente sarebbe, lo scrivono tutti, dal Wall Street Journal al New York Times, al Washington Post, veramente una boccata di ossigeno, appunto, in un momento in cui sono sempre di più gli americani che non riescono davvero ad arrivare a mettere dei pasti caldi su queste tavole imbandite solo per pochi. Giulia, tra le notizie in primo piano sulla stampa americana ci segnali anche l'indagine antitrust che riguarda Google. Esatto, perché secondo molti stati addirittura ci sarebbe stato un accordo tra Google e Facebook per quanto riguarda il tema della pubblicità. Lo sappiamo tutti noi che frequentiamo i social network e i motori di ricerca, quanto invasiva può essere la pubblicità e quanto sono false le promesse, magari salta questo annuncio eccetera, perché poi salta da una parte e rispunta dall'altra. E questa è la prima pagina del Wall Street Journal, perché oltre, ne abbiamo parlato settimana scorsa, a tutte le cause intentate contro Facebook, perché ha di fatto un monopolio controllando anche Instagram e WhatsApp, a questo punto naturalmente si conferma sempre di più quello che molti noi uomini utenti dei social network sapevamo, cioè che queste grandi aziende si mettono d'accordo tra di loro per evitare eventuali spettri di spezzettamento, che poi alla fine è quello che chiede molti stati e hanno chiesto per quanto riguarda Facebook. Allora, stavo guardando le agenzie, c'è un aggiornamento sulla vicenda Regeni, perché dopo la richiesta di Di Maio di far intervenire l'Europa, c'è una dichiarazione della portavoce della Commissione Europea che dice: stiamo seguendo da vicino e chiederemo alle autorità egiziane di collaborare con l'Italia. Piccolo aggiornamento. Che se vuoi ci riporta un po' al tema delle primavere arabe, perché sì, forse insomma in tanti non ce lo ricordiamo, ma i giornali francesi, belgi e in generale francofoni se lo ricordano molto bene. Sottolinea sottolineano l'anniversario. Esatto, il 17 dicembre del 2001, quando... data è questa? In quel giorno, mi sono segnata il nome perché io stessa non me lo ricordavo, un venditore ambulante di 26 anni a Tunisi si diede fuoco per protestare soprattutto per le condizioni economiche, ma anche per le scarse libertà civili che c'erano nel suo paese. E poi perché primavera, insomma, 17 dicembre era inverno, perché poi da lì le proteste si estesero a tutti i paesi, ma oggi tutti i giornali, le SWAR parla di primavere mai sbocciate, le Figaro parla di 10 anni, i fiori appassiti delle primavere arabe, e la Croix ha in prima pagina la foto di un giovane tunisino che tra l'altro ha una felpa che riproduce la bandiera americana, ma appunto 10 anni dopo poco è cambiato, anzi tu hai appena citato l'Egitto e naturalmente anche in Egitto c'erano state tante richieste di cambiamento anche della classe politica. Come sappiamo, al-Sisi sicuramente non è un cambiamento rispetto a chi lo ha preceduto, e insomma è un bilancio triste, perché vuol dire, perché poi si lega, per quanto riguarda soprattutto la Francia naturalmente, anche a tutta la forza del fondamentalismo islamico che nei paesi di origine, in alcuni paesi arabi, naturalmente si nutre anche dello scontento sociale, della povertà, della mancanza di democrazia. E tra l'altro tutto questo in Francia, poi anche questo sui giornali di oggi, le prime condanne per la strage di Charlie Hebdo, condanne anche fino a 30 anni. E però lo sappiamo, il presidente Macron, tra i tanti dossier sul suo tavolo, cioè, ha quello di come ostacolare veramente il fondamentalismo islamico in Francia e come evitare che giovani, magari solo di fede musulmana, diventino in realtà dei fondamentalisti. Allora, a volte gli ascoltatori ci chiedono: ma parlate solo dei paesi dove c'è il coronavirus, non di quelli dove le cose vanno bene? In quel caso lì, diciamo, senza nuove buone nuove, no? Come si dice? Invece qua parliamo di nuovo della Corea, per esempio. Anche in Giappone ho dato notizia stamattina, perché c'è un ritorno, per esempio in Corea. Io ieri ho sentito invito chiunque a ascoltare Christiana Manpour, il suo programma di un'ora sulla CNN, dura un'ora, mediamente 2, massimo 3 ospiti, quindi vi lascio immaginare il grado di approfondimento. E ieri ha avuto ospite la ministro degli esteri della Corea, che è una donna, primo ministro degli esteri a ricoprire, prima donna a ricoprire questo ruolo in Corea, donna in gambissima, che parla un inglese, se non la vedete mentre lo parla immaginate che sia o inglese o americana, e lei ha ammesso: abbiamo noi stessi pensato di aver superato comodamente, sì, molto meglio di altri, abbiamo un tasso di contagio è il più basso al mondo insieme a quello della Nuova Zelanda, con la grande differenza che la Corea del Sud ha una popolazione molto più ampia, parliamo di proporzioni, ma comunque una proporzione di pochi morti comunque su una popolazione molto ampia ha comunque un peso diverso. Lei l'ha sottolineato, ma ha detto: comunque abbiamo alla fine pensato di averla sfangata. E quindi adesso entrano di nuovo nuove misure, nuovo confinamento. Come potete immaginare, il Natale ha un significato diverso in Corea del Sud, non c'è tutta la componente della tradizione cristiana che abbiamo qui, però comunque, siccome lì la terza ondata è arrivata, ci saranno nuove misure di confinamento, e con altissime proporzioni secondo i sondaggi di persone che approvano queste misure, perché insomma le immagini di quello che succede in Occidente le vedono anche loro. E poi c'è il compleanno di Beethoven. Sì, in realtà era ieri, però i tedeschi sono precisi, quindi ieri l'hanno festeggiato e oggi lo ricordano. Quindi 250 anni fa nasceva a Bonn, che poi sapete, dopo la divisione delle due Germanie, è stata per tanti anni la capitale della Germania, cioè, ma all'epoca non lo era. Grandissimo compositore, una vita anche raccontata male, perché poi, come spiegano oggi i giornali tedeschi, i primi biografi raccontarono delle grandi bugie su di lui, però resta la sua opera, restano i suoi spartiti. Ci sono su molti giornali tedeschi oggi pubblicate le immagini originali di quegli spartiti fantastici, e sicuramente insomma un compositore che incarna molto l'anima tedesca. Ci ha lietato parecchi momenti, lui sì, come altri, sempre tedeschi per esempio, per tutti. Grazie Giulia, ci risentiamo domani per la puntata di oggi. È tutto, con Jacopo De Franchi, redazione Andrea Roccabella, in regia. Ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento alle 14. Ciao.